Stato è la più flagrante, la più cinica, la più completa negazione dell'umanità. Esso frantuma la solidarietà universale di tutti gli uomini sulla Terra e li spinge all'associazione al solo scopo di distruggere, conquistare e rendere schiavi tutti gli altri. Protegge solo i suoi cittadini e solo entro i suoi confini riconosce diritti, umanità e civiltà. Liberi, anche politicamente, non c'è logica, non c'è niente. Liberi, sono lento con le onde, liberi, come due ladri nella notte. Non fermarti, non è tardi, resta fuori, che ho bisogno di parlarti, di guardarti, di baciarti. Proletario io, né falso né vero, è pur sempre un'etichetta, sicché la rifiuterei in ogni caso, come tutte le etichette che via via hanno provato ad appiccicarmi addosso, comunista, democristiano, socialista, borghese, persino fascista. Se sono più modestamente un anarchico è perché l'anarchia prima ancora che un'appartenenza, un catechismo, un decalogo, né tantomeno un dogma, è un modo di essere, uno stato d'animo, una categoria dello spirito. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. L'autorità attraverso il consenso della maggioranza lasci le maggioranze stesse libere di scegliere come comportarsi nei confronti delle minoranze. emarginandole, magari non soltanto non rispettandole, ma non tollerandole. Banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai, noi che invochiamo pietà fummo traviate. Navigammo su fragili vascelli per affrontar del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli che la pietà non vi rimanga in tasca. Questo ingenererebbe un grave delitto storico e culturale, cioè il non approfittare di quanto queste minoranze attraverso questi loro differenti comportamenti, comportamenti peraltro che vengono vissuti soltanto con il desiderio di rassomigliare a se stessi, e si perderebbero appunto molti dati culturali di cui il nostro mondo potrebbe arricchirsi. Oh.